30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. La Guardia di Finanza ha sequestrato a Pizzo una costruzione in fase di realizzazione destinata ad ospitare un centro commerciale ubicata in un'area in cui era in atto una frana e che rischiava dunque di crollare. Ad ordinare il sequestro preventivo della struttura con un provvedimento d'urgenza è stata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia. L'area su cui si stava realizzando il centro commerciale è a pochi chilometri da Maierato, il centro del Vibonese fatto evacuare nei giorni scorsi a causa di una frana che ha provocato il crollo di una montagna. Un saluto da Gigi Donelli e da Peter Bescapè, questa sera con noi in regia. Stop alle sabbie mobili, stop a terreni che galleggiano come appunto a Maierato, a interi paesi che sprofondano come a San Fratello nel Messinese. Ma il 70% del territorio italiano potrebbe franare, mentre questa preoccupazione riguarda il 100% del suolo della Calabria. Sono 5.581 i comuni italiani in cui il rischio idrogeologico è alto, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione e 2.596 a rischio sia di frana sia di alluvione. E in questo contesto anche Umbria e Valle d'Aosta sono zone rosse al 100%. Mentre nelle Marche il rischio riguarda il 99% del territorio e in Toscana il 98%. Insomma, a fare la conta del suolo che sbriciola letteralmente la penisola investendo di responsabilità le regioni è l'ultimo rapporto Ambiente Italia 2010 di Legambiente. Professor Domenico Calcaterra, docente di geologia applicata presso l'Università di Federico II di Napoli, buonasera, grazie di essere con noi a questo appuntamento di 30 minuti in cronaca. Buonasera a lei. Il dato è a dir poco impressionante, 5.581 comuni italiani a rischio, visto che in totale ce ne sono 8.801, insomma il dato è chiaro. È possibile che siamo messi così male? Sì, purtroppo non posso che confermare questo dato, che peraltro emerge da un documento ufficiale prodotto da un organo tecnico dello Stato, che è il rapporto sulle frane in Italia prodotto nel 2008 dall'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. I dati che lei ha citato sono corretti, possiamo aggiungere alcune cifre che evidenziano in maniera ancora più eclatante la criticità estesa all'intero territorio nazionale. Oltre 1 milione di persone sono direttamente esposte al rischio e in termini di regioni alcune spiccano per numero di fenomeni franosi censiti. In totale in Italia al 2008 sono stati riscontrati circa 485.000 fenomeni franosi, dei quali 130.000 in Lombardia, 70.000 in Emilia-Romagna, quindi regioni che, almeno a giudicare dalle ultime evidenze, sembrerebbero non meritevoli di attenzione, perché negli ultimi mesi si è parlato di Campania, si è parlato di Calabria, si è parlato di Sicilia, ma questi dati dichiarano in maniera inequivocabile appunto che anche in regioni del settentrione e, come lei diceva, anche del centro Italia, il problema è gravissimo. Insomma, a quanto pare sono meno di un terzo i comuni che non sono interessati. Probabilmente quali sono? Dove sono in posizioni di pianura o comunque di molto particolari alla fine al territorio? Diciamo ristrette aree di pianura che abbiamo nel nostro paese, quindi la pianura padana, alcune zone della Sardegna, il centro, la parte centrale e meridionale della Puglia e poco più, quindi c'è una conformità tra l'assetto morfologico del nostro paese e le zone esposte al rischio. Ecco, professor Calcaterra, cosa sta accadendo? Perché si parla così tanto di frane? Quanto pesa in questo lo sviluppo demografico? Perché è ovvio che se una frana avviene nel deserto del Nevada, con tutto il rispetto per gli amici del Nevada, probabilmente non coinvolge molte persone. Esatto. In Italia accade sempre di più, addirittura sembra quasi fatta apposta, ma nel centro degli abitati. Sì, centro, periferie, comunque soprattutto in zone oggetto di recente urbanizzazione o edificazione. Tant'è vero che studi e statistiche ormai consolidate e anche note non solo ai ricercatori ma anche agli amministratori parlano di un incremento non tanto dei fenomeni franosi quanto degli effetti dei fenomeni franosi a partire dal secondo dopoguerra, quindi a partire dai momenti storici in cui diciamo, il nostro paese ha vissuto momenti di sviluppo, se non addirittura di boom economico e quindi anche edilizio. Sviluppo, boom spesso incontrollato. Quando si costruisce qualche cosa in questo paese, diciamo al di fuori delle pianure di cui abbiamo appena citato, che ruolo svolgete voi geologi? Voi siete chiamati, come dire, a tracciare fotografie delle colline, delle montagne, a dirci quando scivoleranno, quanto è rischioso, quanto siete ascoltati? Quello che lei ha sinteticamente descritto dovrebbe essere la vera missione del geologo in un paese come l'Italia, martoriato dai rischi geologici. Non dimentichiamo gli altri rischi, quello vulcanico e quello sismico. Il problema è ci sono i geologi, in Italia siamo circa 15.000, circa 9.000 attivamente impegnati dal punto di vista professionale, sia nella pubblica amministrazione, all'università e come liberi professionisti. Il vero problema è che la geologia oggi, ancora oggi, viene vista, come dimostrano le cosiddette emergenze che di giorno in giorno si susseguono nel nostro paese, come il tecnico del giorno dopo, come lo specialista del giorno dopo, ovvero a frana avvenuta, a terremoto avvenuto, si chiama il geologo per dettare una sorta di cura in condizioni di emergenza. Il geologo invece dovrebbe affiancare altre figure professionali, gli amministratori, in tempo di pace, vale a dire lontani, quando si è lontani dal momento critico, dal momento parossistico, per prevenire, almeno prevenire se non addirittura prevedere l'evento prossimo futuro. Ecco, ma tutto questo uso del condizionale è perché appunto non avviene oggi questo. Esiste una differenza in questo nelle regioni italiane? C'è, una attenzione maggiore? Ci sono dei modelli che dalla sua esperienza professionale può citare all'interno del nostro paese, insomma di chi ascolta di più e ragiona? Sì, quali sono? Sì. Possiamo fare un discorso su due direttrici. C'è innanzitutto da circa una decina d'anni in tutta Italia, all'indomani dell'emergenza Sarno del 1998 in Campania, si sono finalmente attivate le autorità di bacino, che sono gli organi dello Stato di rango nazionale, interregionale o regionale che presiedono al governo del territorio per quanto riguarda aspetti come il rischio idraulico e il rischio geologico. E questo è una rete presente su tutto il territorio nazionale e quindi abbiamo delle strutture dedicate a quella missione di cui prima parlavamo. Poi ci sono delle regioni virtuose che hanno al loro interno, nelle strutture tecniche, dei veri e propri servizi geologici, e mi riferisco all'Emilia-Romagna, al Piemonte, alla Lombardia, solo per citare gli esempi più noti anche a livello internazionale, strutture efficienti che però devono fronteggiare un'emergenza drammatica. Abbiamo testé detto che Lombardia e Emilia Romagna sono tra le regioni con il più alto numero di frane, quindi diciamo, non è facile, è una lotta difficile perché le risorse umane sono scarse e ancora più scarse sono poi le risorse economiche che di anno in anno vengono messe a disposizione della prevenzione dei rischi geologici, in particolare di quello idraulico e geologico. Professor Calcaterra, quando lei vede, come abbiamo visto tutti noi, le immagini, devo dire, sbalorditive attraverso le televisioni, sì, e qualcuna in diretta di Maierato, per sì, esempio, che cosa le viene in mente? Da esperto, dunque. Direi da cittadino ancora prima che esperto. Certo. E la natura segue il suo corso. Sì, però è un corso prevedibile, perché io magari come cittadino posso considerarlo una sventura. Prevedibile nel senso che se conosciamo il territorio possiamo immaginare, possiamo disegnare scenari, ipotesi di comportamento che ci consentono di adottare delle misure conformi, se non addirittura virtuose. I geologi italiani, ed in particolare l'ordine dei geologi in alcune regioni, questo è un argomento di drammatica attualità, si stanno battendo per affermare la necessità di presidi territoriali. Un presidio territoriale che è una struttura tecnica operativa che è già prevista dalla normativa nazionale e che in Italia ad esempio è stata attuata all'indomani dell'emergenza Sarno del 1998 in Campania. Quindi sono delle squadre di tecnici, ad esempio geologi, sicuramente geologi, ingegneri, esperti di una determinata realtà territoriale che sorvegliano, controllano, osservano e avvertono, auspicabilmente in tempo utile, prima che si verifichi un fenomeno drammatico, affinché si possa intervenire in tempo utile. Ecco, in una battuta, lei prima ha citato, poi torneremo insieme naturalmente a approfondire questo tema subito dopo gli aggiornamenti per la viabilità che arriveranno tra un momento. Lei ha citato regioni virtuose, insomma il suo elenco è stato piuttosto ristretto: Piemonte, Emilia e Lombardia, tutte regioni del nord. Questo come mai nel sud, o meglio non mi dica come mai, ma se ne è dimenticato, oppure la situazione nelle regioni meridionali, in Calabria, in Sicilia in particolare, che per definizione sono regioni estremamente complesse, morfologicamente molto complesse, la situazione è fuori dal controllo? Allora, le regioni che citavo prima sono degli esempi di una di un novero certamente non amplissimo, ma non sono le uniche. Okay. Dobbiamo purtroppo dire che in Italia meridionale la situazione è mediamente deficitaria, almeno per quanto riguarda le strutture regionali che possono definirsi o caratterizzarsi come servizi geologici veri e propri, ribadendo che esistono in tutta Italia le autorità di bacino e quindi almeno delle strutture preposte, anche se con organici spesso molto molto ridotti, al governo del territorio esistono anche e soprattutto nelle regioni meridionali. A questo punto dobbiamo dire l'assenza di altre figure professionali e soprattutto di un numero idoneo di geologi nella pubblica amministrazione nelle regioni dell'Italia meridionale è da imputare alla miopia consolidata nei decenni, sicuramente nei decenni repubblicani, delle amministrazioni che si sono succedute. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque questa sera, lo ricordo, con il professor Domenico Calcaterra, che è docente di geologia applicata all'Università Federico II di Napoli. Siamo partiti dai dati impressionanti sul territorio italiano, dati forse non totalmente nuovi, nel senso che tutti noi sappiamo benissimo di essere in un territorio obiettivamente complesso, lo sappiamo fin dagli studi delle elementari sulla nostra complessa orografia, che però stupiscono quando apprendiamo che oltre 5.500 comuni su 8.801 di cui l'Italia è fatta sono a rischio frana, a rischio inondazione di entrambe le cose. Allora, professor Calcaterra, cerchiamo di ragionare sulle lezioni apprese. Lei ha parlato poco fa di Sarno, che è stato sicuramente uno degli eventi più drammatici, anche mediatizzati, degli ultimi, ormai sono passati più di 10 anni, esatto, però non sono mancati altri drammi nel frattempo. Il 1 ottobre scorso sono morte 31 persone e 6 sono rimaste disperse sotto la terra franata a Giampilieri e in altri villaggi della provincia di Messina. Una tragedia che suggerisce una domanda: come è cambiata la situazione da quel giorno? Come si sta procedendo a Messina dopo un simile dramma? Ecco, queste sono le domande che ho volutamente, come dire, ripreso da inchieste, da colleghi che in questi giorni stanno lavorando e che con le loro inchieste, appunto, trasmesse anche attraverso il web, insomma, mettono in evidenza un altro fatto. In Italia direi che non mancano le denunce, non mancano appunto le questioni sollevate, spesso manca la risposta, la reazione. Allora, lezioni drammatiche, soprattutto per chi ha perso la vita, per i parenti, per chi ha dovuto veramente abbandonare anche zone dove ha trascorso una vita, come a Sarno, come a Scaletta Zanclea, come a Giampilieri. Allora, professore, stiamo imparando qualche cosa da queste lezioni, o come in qualche modo indicava poi l'inchiesta del collega, in questo caso dell'Espresso, sembra di no. La mia opinione è che non tutti ancora abbiamo appreso realmente e profondamente le lezioni che vengono da queste tragedie, da questi drammi. I soggetti che dovrebbero trarne insegnamento sono vari, sono sicuramente gli esperti, i cosiddetti esperti, ricercatori, tecnici che studiano questi fenomeni per comprenderli meglio e per arrivare a delle valutazioni preventive sempre più raffinate. ma insieme con i tecnici e con i ricercatori sono gli amministratori locali e nazionali che dovrebbero trarre insegnamento, ovvero stabilire finalmente una efficace, reale, concreta inversione di tendenza rispetto a quanto è stato fatto negli ultimi decenni. Allora, tanto per parlare chiaro, voi come geologi, come categoria, siete in grado di prevedere che quello che è accaduto appunto nel Messinese si ripeterà? Magari non è ovvio che è impossibile identificare il tempo, ma in un territorio franoso si è in grado di dire attenzione, lì non si deve costruire, punto, e le case che ci sono devono purtroppo essere evacuate, le persone trasferite? E oggi la vostra scienza, diciamo, è in grado di dare una mappatura preventiva di questa natura? In Italia possiamo sicuramente rispondere in modo affermativo a questa domanda che lei si pone, come si pongono tanti cittadini. Anzi, è già possibile perché esistono già dei documenti che sono le carte del rischio da frana. L'Italia è uno dei pochi paesi, se non l'unico al mondo, che è coperto dalle Alpi alla Sicilia da cartografia geologica di dettaglio che identifica, come dicevamo prima, le frane, e sono sicuramente un numero errato per difetto rispetto alla realtà totale, perché le risorse non sono disponibili o non sono mai state cospicue tali da poter coprire nella totalità tutte le realtà locali, ma esiste una prima serie di documenti geologici che consente di dire dove ci sono le frane, con che caratteristiche potrebbero muoversi, se si sono mosse in un passato più o meno recente, e quindi la previsione del dove un fenomeno possa avvenire oggi in Italia è in qualche modo già operativa. Come lei giustamente diceva, in Italia come nel resto del mondo non si può ancora oggi fare una previsione temporale, dire quando una frana potrà colpire, al pari di quello che oggi non è possibile fare né per un terremoto né per un'eruzione vulcanica. Ecco, abbiamo ancora circa 2 minuti e mezzo insieme. Vorrei chiudere su una questione. Naturalmente frana significa inneschi, che è spesso legate alle grandi piogge nei casi che abbiamo citato. Quanto è legato questo discorso a quello che poi invece, soprattutto nel sud, accade, ma non solo, accade d'estate, cioè la crisi, la regolare crisi idrica con cui il nostro paese si confronta? C'è un legame? Sono due temi diversi? Sono diversi, sono aspetti complementari che attengono alle caratteristiche, alle condizioni climatiche nel quale il nostro paese si trova, e qui si apre un discorso, uno scenario diverso, dove l'incertezza nella previsione di fenomeni che siano estremi in un senso o nell'altro, quindi siccità o eventi pluviometrici particolarmente intensi, dicevo, l'incertezza è dettata dagli apparenti cambiamenti climatici di cui altri esperti stanno studiando caratteristiche e connotati. Questo complica la vita molto anche a chi si occupa di rischio idraulico, di rischio geologico, a chi si occupa di acque sotterranee, di risorse idriche, perché se cambiano le condizioni climatiche, meteorologiche, ovviamente cambia anche il modo con cui il territorio risponde a queste variazioni. Insomma, il territorio che cambia anche attraverso il cambiamento climatico, l'impatto demografico, non dimentichiamo che certo, l'Italia, come molti paesi, insomma, in questo secolo porta e sopporta il doppio quasi di noi, e questo ha naturalmente delle implicazioni. Vorrei però concludere, professor Calcaterra, con una questione. La mia sensazione, ma magari sbaglio e le chiedo appunto di smentirmi, è che dal suo discorso emerge che insomma abbiamo direi se non tutti il 99% degli strumenti per capire, per intervenire, per dire anche che 1 milione di persone in Italia che vivono di fatto su dei territori a rischio sono troppe, e che quindi la palla, diciamo, l'intervento è quello della prevenzione e della politica. Ho capito male? Ha capito bene, mi permetto solo di aggiungere un paio di considerazioni. Le potenzialità ci sono tutte in termini di risorse umane già oggi disponibili e spendibili, e in primis i geologi italiani sono pronti e hanno già dimostrato di poter contribuire a risolvere preventivamente questi fenomeni. Di contro c'è una resistenza o reticenza da parte dell'amministrazione dello Stato nelle sue varie articolazioni ad investire in queste risorse umane. Io ringrazio Domenico Calcaterra, lo ricordo, professore docente di geologia applicata presso l'Università Federico II di Napoli, per essere stato con noi questa sera. Vi ricordo solamente www.radio24.it per risentire questo e tutti i programmi di Radio 24, e vi auguro naturalmente un ottimo fine settimana.